ma il suo nemico Sloan, appena condannato per guida in stato di ebbrezza. Per guida in stato di ebbrezza. Beh, ma me ne ero accorta che non era tanto sobrio quel giorno. C'è un ubriacone ambulante. Non lo dite voi, io non lo direi mai. Però certo, un uomo che non solo alza la voce nei confronti di una donna, ma le punta anche il dito contro, che in Inghilterra tradizionalmente viene considerato un insulto piuttosto grave. Beh, insomma, la dice lunga. E peraltro un uomo che insulta gli italiani. Ecco, questo non glielo permetto. Adesso... Vada a dare lezioni. No, beh, dare dei mafiosi ai siciliani, degli ignoranti ai lucani e insultare gli italiani. Io non lo permetto a nessuno, da rappresentante delle istituzioni, soprattutto da italiana dell'Alto Adige, che vive comunque ha passato qualche ora politica. Ha passato qualche ora in carcere a insegnare inglese ed è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Lui più che insegnare inglese, gli hanno ritirato la patente per un anno e mezzo, gli hanno commissionato 20.000 euro di multa, e da questo tizio noi gli italiani dovrebbero prendere esempio. Questo è il tizio che si riempie la bocca dell'etica contro Berlusconi, ma per cortesia torni nel suo paese. La fa la cosa grave è che queste persone vengono pagate con i soldi degli italiani. Ma che soldi degli italiani? È la 7 che gli dà i soldi. Quali soldi degli italiani? Non soltanto la 7, varie trasmissioni televisive, probabilmente andata anche qualche volta alla Rai, non lo so, varie trasmissioni televisive, pare che sia andato anche a quelli che il calcio. Voglio dire, ho capito, ma non è pagato dagli italiani. Ma anche se è pagato da un privato, resta il fatto che tra quei privati che magari guardano la 7 ci sono anche i lucani e i siciliani, che forse non vogliono essere insultati da un personaggio sconosciuto, più o meno sconosciuto, che viene dall'Inghilterra. Sa che cosa sarebbe accaduto? Infatti sto preparando un'interrogazione al ministro Terzi. Addirittura? Se una cosa del genere. Ma perché un'interrogazione? Non ho capito. Perché voglio che lui manifesti sorpresa nei confronti dell'ambasciatore inglese in Italia, perché un comportamento del genere di un cittadino straniero in un altro paese sarebbe stato un caso diplomatico, perché dire che i siciliani sono tutti mafiosi e dire che i lucani sono tutti ignoranti. Ma non ha detto questo, poi ha detto esattamente questo, vada a sentirselo il ma video, non ha detto tant'è questo. Che la povera Cristina Parodi, che comprensibilmente abbraccio, era in imbarazzo, era fortemente in imbarazzo. E dunque lei sta preparando addirittura un'interrogazione al ministro Terzi? E che dovrebbe fare? Perché voglio che manifesti, è un modo gergale che usiamo noi in politica, voglio che manifesti sorpresa perché un cittadino inglese da parte, cioè va in televisione ad insultare. Cioè dovrebbe rimproverare il signor Sloan, il ministro Terzi. Dai, su, ma non esageriamo. Manifestare sorpresa, si chiama. Vabbè, ma ho capito, lasciamo perdere i termini diplomatici. Vedete, sapete perché il nostro paese. Ma perché lei deve perdere tempo con queste cose? Ma sapete perché il nostro paese viene sempre sbeffeggiato all'estero? Perché voi non prendete, ma anche il telegiornale del Kenya ha preso per il culo Berlusconi sulla corruzione. Non prendete seriamente questi fatti. Se fosse successo che io in Inghilterra fossi andata a insultare gli inglesi, si scatenava un caso diplomatico. Voi dovreste essere dalla mia parte e non prendermi in giro. Vabbè, ma noi giochiamo con questo, ma che ci frega a noi di Sloan? Ditelo agli italiani, ma che gliene frega gli italiani di quello che pensa il signor Sloan? Ma come non gliene frega? Gliene frega come? Lo vado a dire ai siciliani se si sentono tutti mafiosi. Quante persone per bene, ma non ha detto nemmeno questo, dai. No, stava per dire proprio quello e lo ha detto chiaramente. Ma lei è stata alleata con la Lega un sacco di tempo e ne ha detti tutti i colori contro l'Italia, non ha mai detto nulla. Io non ho mai detto nulla, io mi sono attaccata più di una volta con la Lega, anche in Trentino. Ho capito, vado a vedere, ma io non sono una che è stata mai zitta di fronte a nulla, anzi.